Ciao Alice! Ciao Monica! Come stai? Bene, te? Io bene, grazie. E ciao Radio Risacca! Ciao! Ciao belle, ciao brutti! Spero che state bene. Oggi, come nostro nono appuntamento, vi parleremo della lavanda! Fantastica, fantastica lavanda, e noi siamo state anche al Lavandeto di Assisi la settimana scorsa. Andateci tutti a rilassarvi. Sì, lo consigliamo, è stupendo. Allora, della lavanda, detta anche Lavandula officinalis, giusto? Yes. Della famiglia? Delle labiate. Esatto. E quali sono le parti utilizzate? Della lavanda vengono utilizzate le sommità fiorite, ok, non ancora arrivate a fioritura completa, cioè okay. Quando sta per fiorire la pianta tagliamo. E quando le possiamo raccogliere? Beh, le possiamo raccogliere diciamo da giugno a settembre, dipende la qualità, la specie di lavanda, perché noi abbiamo scoperto che la lavanda può arrivare fino a 70 specie differenti. Eh sì, ne abbiamo viste un bel po'. Sì, sì, sì, sì, testimoni. E quindi non ancora arrivate completamente alla fioritura, possiamo iniziare a raccogliere i suoi fiori. E quali curiosità abbiamo scoperto riguardo a questa pianta, Alice? Allora, come cenno storico, possiamo dire che la lavanda entra a far parte della materia medica fitoterapica. Ok. Nel XVIII secolo. Mazza, quindi è una pianta antica. Eh sì, come tutte le piante che abbiamo portato. Allora, e come indicazione entra pianta cefalica, cioè okay. Come indicata per i problemi dell'emicrania del cervello, sì. Sì. E quindi nel trattamento dell'emicrania. Bellissima, bellissima. Senti, invece verso quali organi, che ne abbiamo appena detto uno, però ce ne sono altri, verso certo. Quali organi e apparati questa pianta ha maggior azione? Beh, ha maggior azione anche nel sistema nervoso centrale, per esempio, dell'apparato respiratorio, dell'apparato gastroenterico e anche delle vie urinarie. Olè. Olè, quindi è una pianta che fa bene a tutto il vostro corpo. È sempre buono tenerne un po' nel vostro armadietto. Già. Poi la lavanda ha questa profumazione molto intensa perché contiene in grandi quantità moltissimi oli essenziali. Esatto. Molti tannini, che esatto. Sono quei principi attivi astringenti, cioè quindi è buona da assumere anche in caso di diarrea. Esatto. Che troviamo all'interno di qualsiasi tipo di tè, e tanti principi amari. Ok, e quali sono le principali proprietà di questa pianta? La prima è la sedativa. Senza ombra di dubbio, proprio. Poi ha proprietà eupeptica, cioè che favorisce l'appetito e tutte le funzioni digestive. Ok, quindi se avete problemi di appetito, non vi viene tanta fame, o avete problemi di digestione, usate la lavanda. E poi dicevamo, ha proprietà fluidificanti, diuretiche e antisettiche. E olè. E Alice, che cosa possiamo curare con questa pianta principalmente? Allora, qualsiasi tipo di stati d'ansia e di ipericitabilità nervosa, okay. Cioè siamo agitati, siamo alterati, cioè abbiamo l'ansia, diamosela lavanda, grandi dosi di lavanda. Battezziamoci con la lavanda. Esatto. Poi nelle cefalee muscolotensive e nelle emicranie. Ok. Nelle affezioni respiratorie come la normale influenza, nelle bronchiti, ma anche nella in caso di bronchite cronica. Ok. E poi succede? E poi, come dicevamo, difficoltà digestive e tutti gli stati di infiammazione e infezione delle vie urogenitali e intestinali, come La co... Oddio, questo è difficile. La colibacillosi. Che cos'è la colibacillosi? Cioè, spiegacelo. Allora, per colibacillosi si intende tutte le patologie che sono provocate dal batterio Escherichia coli. Quindi okay. Abbiamo una cistite, andiamo a fare le analisi, esce Escherichia coli, usiamo la tintura di lavanda perché è perfetta. Ok, infatti, oltre a quello, anche per i problemi di cistiti, recidivanti, quindi se soffrite spesso di cistiti e anche di leucorrea. Che cos'è? Leucorrea. Che cos'è? La leucorrea, Marica. Spiegacelo. Sono le selezioni. Oggi tutti i termini difficili, quindi attenzione. L'ho fatta apposta. Ci sta mettendo la prova. No, la leucorrea è facilissima. Vai. Sono le secrezioni biancastre che escono dalla vagina. Ok. Ok. Era facile. In caso delle leucorrea eccessiva, che può succedere, usiamo la lavanda. Ok. Grazie. Allora, quindi cosa ci consigli come trattamento? Beh, in questo caso non consigliamo la tisana come al solito. Perché? Ma perché è troppo, magari può risultare troppo amaro o troppo leggera, dipende dai vostri problemi e dalla gravità dei vostri problemi. Quindi in questa puntata consigliamo una tintura madre. E olè! Olè! La prima tinturina madre. Sì, non diremo come si fa perché è un procedimento un po' lungo, quindi vi consigliamo di comprarla in erboristeria se vi è più comodo. Quanta ne prendiamo? Allora, si prendono dalle 20 alle 40 gocce a seconda del peso corporeo, okay. Che adesso lo spieghiamo anche questo, diluite in un po' d'acqua, in due dita d'acqua, okay. 2-3 volte al giorno, lontano dai pasti. Ok. Allora, dalle 20 alle 40 gocce, perché solitamente al giorno, giornalmente, si prendono tante gocce per chilo di peso corporeo, okay. Nel senso, io peso 90 kg, mi prendo 30, 30 e 30. Ok. Così. Facile, sembra molto facile. Io peso 60 kg, quindi prendi farò 20-20-20. Quindi come posologia è pure molto semplice, non andate in panico. E soprattutto utilizzatela, anche un ottimo calmante, vi rilassa, come abbiamo detto. Ha quel profumo, se vi capita di avere una pianta di lavanda a casa, curatela, perché scaccia anche molti mali, scaccia le energie negative, rilassa il vostro sistema nervoso, sì. Se avete problemi di insonnia, fate dei sacchettini, metteteveli sotto al cuscino o comunque degli oli essenziali alla lavanda. Comprando l'olio essenziale, sì. È molto utile perché può essere usato assoluto, cioè okay. Non diluito all'interno di nessun olio, una goccia o al massimo due gocce per qualsiasi anche contrattura muscolare, per sciogliere i muscoli, come dicevamo prima, anche in caso di emicrania, dolori alla testa, uno si mette l'olio essenziale puro, è una mano santa. Ottimo. Poi possiamo trovare controindicazioni? E non ci sono, la cosa buona di questa pianta è che non ci sono segnalate controindicazioni o effetti tossici. Quindi le dosi eccessive, l'unica cosa che può indurre alla sonnolenza. Quindi, capito, se ne prendete troppa, magari non vi svegliate più. O comunque farete un grande sonno. Non vi svegliate più, sembra io. Il veleno, proprio. Non ci sono queste indicazioni, prendete tutta la lavanda che volete. Però non vi svegliate più, capito? Non guidate come il bugiardino, non guidate mezzi pesanti, non mettete via la guida, non usate elettrodomestici. Però non ci sono controindicazioni. Però non ci sono controindicazioni o effetti tossici, capito? Quindi prendetene, ma non troppa, perché sennò sarete degli addormentati, ok? Speriamo che vi sia piaciuta questa puntatina sulla lavanda. Noi siamo molto molto contente e soprattutto rilassate dopo il nostro bel giro al lavandeto. Lo consigliamo a tutte e a tutti, è un'esperienza fantastica. E adesso vi lasceremo una fantastica ricettina per i nostri olè. Per i nostri maschietti. ok? Per i nostri compagni, per i nostri amici. Questo è un sapone da barba alla lavanda, ok? Quindi, amichetti, prendete carta e penna. Amici, prendete carta e penna. Allora, ingredienti: 60 g di sapone di Marsiglia, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva o di oleolito alla calendula, 1 cucchiaio d'acqua e 40 gocce di olio essenziale di lavanda. Ok? Preparazione. Vai, allora si grattugia il sapone facendolo a scaglie, poi si stende bene bene su un foglio di carta, anche quella del pane, e si lascia seccare per un paio di giorni. Ok. Poi si polverizza il sapone essiccato se abbiamo un macina caffè elettrico, se no un mini beamer, se no lo lasciamo così. Ok. Poi si mescola la polvere con del sapone con gli altri ingredienti. Però attenzione, non respirate la polvere che si solleva perché può essere irritante, ok? Poi? Quindi dovremmo ottenere alla fine una pasta molto consistente. Ok. E la poniamo in una scodella e la pressiamo bene. Ok. Cercando di pareggiare la superficie. Tutto il preparato si conserva a temperatura ambiente fino a 5-6 mesi. Perfetto. Come lo usiamo? Allora, ometti, bagnate il pennello, il classico pennello da barba che usavano i vostri nonni. Consigliamo di ricomprarvelo, o se qualche nonno è ancora in vita, fatevelo passare come eredità. Allora, e ve lo passate ripetutamente sulla superficie formando della schiuma. Poi applicate questa schiuma sul viso e procedete nella rasatura come al solito, pelo contro pelo, quello che vi piace. Poi risciacquate con acqua tiepida e asciugate il viso tamponando delicatamente. Ok, ometti, e non vi sgarate, soprattutto. E questo è un sapone particolarmente emoliente e lubrificante. Delicatamente profumato grazie al sapone di Marsiglia e grazie all'olio essenziale di lavanda, soprattutto per la calendula e la lavanda, che lasciano la pelle molto morbida e sicuramente molto meno arrossata rispetto a una normale rasatura. Certo, e poi è più protetta soprattutto, e questa schiuma facilita la rasatura. Quindi se avete una barba molto fitta e della pelle delicata, questo sapone da barba vi facilita la rasatura. Vi facilita la rasatura, ok? Ragazzi, speriamo che ne usufruirete, ne farete molto, perché è anche molto semplice da fare. Intrugliate pure voi, divertitevi, fate piccoli chimici. Dai maschietti, su, mettetevi in gioco. E speriamo tanto che questa puntata vi sia piaciuta, e speriamo che anche questa ricetta vi abbia aiutato per le vostre rasature. Certo, questo è un sapone da barba strettamente per la barba, però donnine, se anche voi usate il rasoio potete utilizzarlo, giusto? Noi abbiamo provato sui nostri faccini a raderci. Esatto. E viene molto bene. Soprattutto... No, non è vero, non lo fate mai, è mai che ha bevuto qualcosa di molto molto pesante. Ragazze, no, il rasoio in faccia. No, da altre parti. Alice ha capito male, da altre parti. Se voi donnine usate il rasoio per le vostre parti del corpo, utilizzatelo anche voi, ok? E adesso vi lasciamo la perla della saggia, visto che la settimana scorsa è scappata senza dirci niente. Cioè, giusto? Sparita, sì. Cioè, è sparita, a un certo punto stavamo registrando, ci siamo girate e non c'era più, non c'era la saggia. Ce l'hanno portata via, ma fortunatamente è ritornata con una nuova perla di questa settimana. Prego, saggia. In un mare di lavanda vorrei fare bracciate di meraviglie. Wow! grazie Saggia. Arigato. Arigato, come sempre, fantastiche le sue perle. E vogliamo dire anche qualcos'altro? Il detto. Il detto, c'è anche un detto. In romano. In romano, perché stiamo a Roma. Stiamo a Roma. Per il mal di testa che te sei preso alla locanda, piade due gocce di lavanda. Esatto, esatto. Bravi. Sfortunatamente non c'è la locanda, ma come abbiamo detto questa radio si chiama Risacca. Quindi c'è la risacca. Quindi c'è la risacca ed è anche molto molto molto pesante. Facciamo soprattutto un saluto a Cristina. Ciao! Ciao Cristina, che ha preso uno scoglio. Sorellina, durante la risacca, nella risacca ha preso uno scoglio. E fatti forza, siamo con te, ci manchi tanto e riguardati. Ok? A posto. Ciao Cristina, un bacio. E ciao Radio Risacca. E ciao Radio Risacca, fai poche vittime soprattutto. E se vi ubriacate, poi dopo potete usare l'olio essenziale di lavanda, va bene? Ubriacatevi, ciao. Ciao. Ciao Radio Risacca, ciao ragazze, ciao ragazzi, a presto.